Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Questa settimana siamo in onda di martedì e non di lunedì. Come i nostri ascoltatori sanno, in questi giorni i fatti di Parigi hanno un po' rivoluzionato il palinsesto di Radio 24. Tra gli argomenti di questa puntata, il portale sulla regolarità delle imprese di autotrasporto che da lunedì prossimo sarà consultabile anche dai committenti, i dati incoraggianti relativi alla produzione di veicoli per il trasporto merci, un nuovo corso di laurea per chi intende diventare manager nel settore della logistica. E partiamo appunto dal portale realizzato dall'Albo degli autotrasportatori per garantire e certificare la regolarità delle imprese. Uno strumento sul fronte della legalità a favore di un mercato sano e all'insegna di servizi efficienti. Per aggiornarci sul suo funzionamento abbiamo in linea Silvio Faggi, vicepresidente dell'Albo degli autotrasportatori. Buon pomeriggio Faggi. Sì, buon pomeriggio. Allora, ci fai il punto della situazione? Il Comitato Centrale dell'Albo ha dato finalmente via libera a questa grande innovazione approvando la delibera che dal 23 novembre prossimo, cioè da lunedì prossimo, mette a disposizione di tutti i committenti le informazioni di base relative alla regolarità o meno delle imprese di autotrasporto. Qual è il sito al quale collegarsi? Momentaneamente il sistema gira sul portale dell'automobilista, che è un portale del Ministero dei Trasporti. Entro l'anno contiamo di farlo migrare sul portale invece dell'Albo dell'autotrasporto, che è in fase avanzata di ristrutturazione e dovrebbe essere pronto entro dicembre sicuramente. Ecco, vale la pena ricordare come funzionerà il portale. Per quanto riguarda l'impresa di autotrasporto, interrogando il sistema ha la possibilità di verificare se tutti i parametri previsti appunto da questa norma sulla regolarità sono presenti per quanto attiene la propria iscrizione e quindi è in grado di verificare se risulta correttamente iscritta all'albo degli autotrasportatori, a REN, alla Camera di Commercio, è in grado di verificare le targhe dei veicoli di cui dispone, se sono regolarmente coperte da assicurazione, eccetera. Invece per quanto riguarda l'impresa committente, colui che commissiona il trasporto, questi ha la possibilità di verificare, accedendo, quindi registrandosi, sempre al portale dell'automobilista in questa fase, ha la possibilità di verificare se l'impresa che intende utilizzare o che intende contrattualizzare per dei trasporti risulta regolare o meno. Appunto dell'impresa che risulta regolare potrà ottenere una certificazione che poi servirà a lui da allegare al contratto di trasporto al fine di esonerarlo da una serie di responsabilità proprie. I committenti saranno responsabili delle proprie scelte e quindi di eventuali irregolarità che dovessero riscontrarsi durante il servizio, ma a carico delle imprese con il semaforo rosso cosa potrà accadere? Il fatto di avere un semaforo rosso può dipendere anche da situazioni momentanee. Sono diverse le casistiche, alcune di queste sicuramente rimediabili da parte dell'autotrasportatore. La perdita momentanea di un requisito, che ne so, l'impresa perde la capacità finanziaria, può riacquisire entro i termini previsti dalla norma e il semaforo tornerebbe a diventare verde. E se il semaforo continuerà a rimanere rosso? A quel punto la norma prevede una serie di provvedimenti, fra cui il più grave è proprio la esclusione dall'albo. Dopo gli attentati di Parigi e le nuove minacce, la maglia dei controlli si restringe non solo per le persone ma anche per le merci. Di come coniugare efficienza e sicurezza ha parlato ieri a Genova in un convegno Rodolfo De Dominicis, presidente di UIRNET, il soggetto che per conto del Ministero dei Trasporti gestisce la realizzazione della piattaforma logistica nazionale. Lo abbiamo intervistato. Come si può garantire efficienza in una rete che deve essere però più blindata in qualche modo? Talvolta può essere anche una contraddizione questa. Lo è una contraddizione, perché uno più ha una rete blindata, più questa rete comprime, diciamo, la libera iniziativa. Bisogna trovare il giusto mezzo, il punto di mezzo all'interno di quello che si va a realizzare, in maniera tale che l'efficienza possa crescere a tal punto da compensare la necessaria compressione che bisognerà andare a inserire all'interno del sistema. Abbiamo un grosso problema di security in questo momento da gestire in questo paese. E veniamo ad una notizia legata ad una questione che negli ultimi mesi è stata al centro dell'attenzione degli operatori del settore, e cioè il versamento del contributo all'autorità di regolazione dei trasporti da parte delle imprese della filiera logistica. Su istanza delle associazioni di categoria, il TAR del Lazio ha bloccato l'esecutività delle richieste di pagamento dell'Authority e ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale. La ripresa sta manifestando i suoi effetti anche sul comparto dei trasporti. Ci sono vari studi che lo certificano. Secondo l'osservatorio Contract Logistics del Politecnico di Milano, nel 2014 in Italia il fatturato della logistica conto terzi è cresciuto dell'1,8% rispetto al 2013, superando i 77 miliardi di euro. Un altro segnale arriva da ANFIA, l'associazione della filiera automobilistica. Nei primi 9 mesi del 2015 l'aumento della produzione di veicoli ha subito una vera e propria impennata. Per quanto riguarda le auto, addirittura si è registrato un più 69%, dati incoraggianti anche sul fronte dei veicoli commerciali e dei mezzi pesanti. Per i primi, quelli cioè sotto le 3,5 tonnellate, la produzione è salita del 15%, per i secondi l'incremento è stato del 43%. Per commentare questi dati abbiamo sentito Gianmarco Giorda, direttore di ANFIA. Diciamo, negli ultimi 6-7 anni la produzione di veicoli commerciali leggeri ha tenuto molto di più rispetto ad altri settori merceologici, tant'è che è decresciuta solo tra virgolette del 15-16%, mentre l'autovettura piuttosto che gli autobus e gli autocarri negli ultimi 6-7 anni fino al 2014 hanno avuto delle decrescite anche del 60-70%, per cui un aumento moderato dei commerciali leggeri si spiega anche appunto dal fatto che negli ultimi anni ha tenuto maggiormente la produzione di questo settore rispetto ad altri settori merceologici legati all'automotive. Una crescita destinata a proseguire. Prevediamo un incremento ancora nei prossimi mesi sia del mercato dei commerciali leggeri e dei veicoli industriali. Un altro dato interessante legato in qualche modo anche al settore dell'autotrasporto: noi abbiamo visto nei primi 9 mesi dell'anno un incremento significativo anche nella vendita di rimorchi e semirimorchi in Italia, un più 68%. Un corso di laurea triennale per diventare consulente dei trasporti, una figura professionale nuova, un percorso di studio inedito per l'Italia. Succede all'Università di Macerata e l'avvio del corso è il risultato di una collaborazione tra l'Ateneo e le organizzazioni territoriali della logistica, a partire da Confartigianato Trasporti. Collegato con noi è il rettore dell'Università di Macerata, Luigi Lacché. Buon pomeriggio, rettore. Buongiorno a voi. Allora, com'è nata l'idea di questo corso di laurea? Il corso nasce da, l'osservazione di un fenomeno, e cioè che il settore dei trasporti, nella sua più ampia accezione, un settore molto ampio che va dai trasporti in senso tradizionale alle nuove forme, l'internazionalizzazione del sistema, l'intermodalità, la logistica, cioè tutto questo fenomeno a livello di formazione non trova grandi risposte. E quindi abbiamo pensato che ci volesse qualcosa di più specifico. A chi proponete questo percorso di studi? La prima ovviamente è quella del giovane che ritiene di poter trovare nel mondo del trasporto una collocazione lavorativa futura, e in maniera particolare come esperto nel settore giuridico-economico. Questo è l'orientamento del corso. Poi ci rivolgiamo, ed è probabilmente una delle cose che interessa le categorie, a chi già opera nel settore magari da molti anni, cioè che ha tanta esperienza, ma talvolta gli manca un po' la cornice più di studio. Uno sguardo ora alla situazione della viabilità nelle regioni del sud. Da ieri la Sicilia non è più spezzata in due. Lungo la Palermo-Catania, all'altezza di Scillato, è stato aperto il bypass provvisorio che unisce il tratto rimasto interrotto lo scorso aprile in seguito al cedimento del viadotto Himera. In Calabria la statale 106 Ionica, bloccata in due punti a causa dell'alluvione del 1° novembre, è tornata percorribile sull'intero tracciato. Hashtag Autotrasporti finisce qui, grazie per l'attenzione da Andrea Ferro. Buon pomeriggio. Hashtag Autotrasporti.